Altra rassegna, siamo in Romagna, nella città, città splendida di Sant'Arcangelo di Romagna. Beh, un grande del cinema che interpretava Loris Batacchi ne ha dato un riferimento durante una conversazione che per me resta sempre e comunque tutti i tempi. Beh, magari se mi citate chi è questo protagonista al 333-180-9494 che porta per determinati motivi di seduzione quasi la metà della popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna. Ma siamo a teatro col Sant'Arcangelo Festival e mentre siamo a teatro, mentre siamo qui, While We Are Here è il titolo della 54esima edizione del festival per quelli che sono dei contenuti che hanno una visione totalmente trasversale in un linguaggio totale che dà un balzo in avanti anche per quanto riguarda contenuti non solo di teatro ma di performance nella maniera assolutamente più estesa. Io ringrazio tantissimo per la redazione di Radio Città Fujiko Alessia Sironi che si è occupata di intervistare i protagonisti della 54esima edizione. Iniziamo con il presidente dell'associazione Sant'Arcangelo dei Teatri, Giovanni Boccia Artieri, quindi grazie ad Alessia Sironi per il servizio portato per la nostra emittente e al Breakfast Club in scena. Sono Giovanni Boccia Artieri, sono il presidente dell'associazione Sant'Arcangelo dei Teatri che gestisce il festival per le altre cose. Un commento sul titolo di questa edizione del Sant'Arcangelo Festival, mentre siamo qui, cosa rappresenta? È fondamentalmente un titolo che è uno statement che dice due cose. Uno, che il tempo ha una durata, il tempo va visto come durata e quindi mentre noi facciamo delle cose ne accadono delle altre. Dall'altro è le cose che accadono, cioè mentre noi faremo il festival, o siamo qui oggi a presentarlo, nel mondo succedono delle cose che non possono non avere una risonanza con quello che sta accadendo. Pensiamo alle violenze, alle guerre, al genocidio e, diciamo, e a tutti gli elementi di discriminazione che vengono portati avanti. Il festival è anche un'occasione per ripensare al proprio tempo e al proprio tempo in relazione al tempo degli altri. Un sogno per questo Sant'Arcangelo Festival, c'è qualcosa di inespresso magari? Il sogno che Sant'Arcangelo porta avanti ormai da 54 anni è quello di creare una comunità temporanea che in qualche maniera mette insieme i vari livelli del mondo dello spettacolo, artisti e artisti, gli operatori, i tecnici, il pubblico, che organizza all'interno di uno stesso tipo di contesto e di un mood di pensiero che sempre di più per noi si orienta alla sostenibilità, al rispetto della diversità e in qualche maniera anche alla possibilità di pensare in maniera diversa ai diritti degli altri. Grazie mille. Grazie a voi. I got me a badge, a bright shiny badge. I'm painting the crest in yellow and blue. Got me a club, an exclusive club. Doesn't include a place for you. Horses, qui troviamo entrambi, sia Steve Jansen che David Sylvian e oltretutto a completare la formazione per la ritmica di Bart Friedman. Allora mi correggo, perché non voglio certo tralasciare l'importanza di una collega, amica e compagna di viaggio come Rachele Copparoni, che si è occupata dell'intervista per Sant'Arcangelo Festival 54esima edizione del dialogo con Giovanni Boccia Artieri, presidente dell'associazione Sant'Arcangelo dei Teatri. Ora con Alessia Sironi entreremo nel dettaglio con il direttore artistico Thomas Kirnczuk. Buongiorno, Thomas Kirnczuk, direttore artistico di Sant'Arcangelo Festival. Quali sono le novità di Sant'Arcangelo Festival 2024? È una domanda molto difficile, perché direi che questo festival è basato sulle novità in genere, cioè proprio per la sua natura rinnovativa, è un festival che dal mio punto di vista si cambia veramente ogni anno e si rinasce da nuovo. Ricordiamoci che è un festival che ha più di 50 anni di storia, che è organizzato sempre a luglio a Sant'Arcangelo, una cittadina non troppo grande, che comunque ha le sue particolarità che riguardano soprattutto gli spazi. Allora per noi, per Sant'Arcangelo, un lavoro che ci aiuta veramente di rinnovare questo festival è sempre di partire, di pensare sul festival dai spazi. Per esempio quest'anno apriamo un nuovo spazio che è fuori di centro, dietro una vecchia fabbrica Buzzi Unicem. È uno spazio che usiamo per la prima volta, che è un giardino segreto, noi lo chiamiamo un po' così, in cui ospiteremo tre lavori bellissimi, uno di Bruno Freire, un artista brasiliano con la base a Brussels, e un altro lavoro di Stefania Tansini, una coreografa e vincitrice di premio UBU italiana, e poi anche l'esito del laboratorio annuale Non Scuola. Per quanto riguarda gli altri spazi nuovi che presentiamo quest'anno, andiamo alle Grotte di Sant'Arcangelo, che è uno spazio molto particolare. Lì ospiteremo il lavoro di Elena Rivoltini, un'artista giovane, emergente, sostenuta da Fondo, un progetto che l'abbiamo creato insieme con i 15 partner nazionali per sostenere la ricerca degli artisti emergenti, artisti e artiste emergenti. Sì, sono direi queste novità spaziali. Poi stiamo un po' cercando le nuove modalità con cui possiamo coinvolgere la cittadinanza sant'arcangiolese, perché abbiamo sempre più persone che vogliono partecipare al festival di quanto abbiamo i posti nei nostri venue. Quest'anno partiamo con una nuova piccola attività, ma credo che molto bella, che sono i warm up con gli artisti. Nei giorni infrasettimanali ospiteremo gli artisti di festival che faranno i workshop sulla piazza di Sant'Arcangelo, per dare un segno ancora più forte di permanenza di questo festival dentro la città di Sant'Arcangelo. Esiste un tema di fondo che lega tutti questi artisti, o comunque quello che sarà il tema del festival? Sì, anche qui la domanda un po' sì, un po' no, perché noi chiaramente abbiamo Claim, che quell'anno è While We Are Here, e che non è, come senti, non è proprio un tema, è più un cornice che in qualche modo ci aiuta di raccontare il festival. E nel caso nostro, noi questo Claim lo scegliamo sempre alla fine del processo curatoriale, nel momento in cui abbiamo già impostato il programma, perché ci interessa di più di capire cosa ci raccontano tutte e tutti gli artisti insieme, di quando dargli un tema su cui dovrebbero lavorare. Quest'anno l'abbiamo scelto questo Claim While We Are Here, perché crediamo che nelle pratiche degli artisti e artisti presentati al festival si concentrano molto sul momento in cui la performance accade, cioè proprio questo concentramento su chi siamo, dove siamo e cosa sta accadendo qua mentre assistiamo a uno spettacolo, ma anche c'è questa domanda: cosa sta accadendo al di fuori? Perché chiaramente il festival offre una situazione, un'opportunità unica di mettersi nel momento molto particolare della realtà artistica, ma dobbiamo ricordare che fuori di questo contesto accadono le cose brutte, le cose violenti, le guerre, i genocidi, eccetera, eccetera, e questo chiaramente anche influisce molto il modo in cui viviamo, in cui seguiamo il festival, e chiaramente questo anche influisce molto il lavoro artistico delle artiste e artisti invitati al festival. Siete attenti allo spazio, e in che modo verrà utilizzato lo spazio con le performance? Quali performance ci saranno? Su questa cosa possiamo parlare anche ore, perché a Sant'Arcangio veramente la parte di curatela di questo festival riguarda proprio un dialogo molto intenso con gli artisti per capire come possiamo sistemare i loro lavori nei spazi che abbiamo, o come possiamo sistemare la città per poter ospitare questi lavori che vogliamo presentare. Quest'anno usiamo spazi molto diversi, cioè si parte da Rimini, dove andiamo al Teatro Galli, in cui presentiamo un bellissimo lavoro di una coreografa francese importante, Dalila Belasa, che è la prima volta che lei viene al festival, ma lì la situazione è abbastanza tradizionale, cioè si usa uno spazio teatrale molto significativo, ma è molto importante per noi di avere questa collaborazione con Galli. Dall'altro lato usiamo i spazi come per esempio La Grotta, in cui offriamo uno spettacolo dedicato a 20 persone alla volta, che lì chiaramente questo spazio molto significativo anche influisce molto il lavoro di Elena Rivoltini. Quest'anno presentiamo anche un lavoro di un artista finlandese, Samuel Laine, che sarebbe un'esperienza 1-1, in cui il performer sta allattando lo spettatore che viene a sperimentare questa esperienza. Abbiamo anche molti spettacoli che l'abbiamo, insieme con gli artisti, abbiamo adattato ai spazi fuori, all'aperto, e qui chiaramente è un palco molto importante per noi, che è quello sistemato al parco Baden-Powell, in cui una situazione molto semplice, con una pedana di legno sulla terra, con una piccola tribuna, faremo i spettacoli al tramonto, e qui ancora questa bellezza di Sant'Arcangelo che circonda i spettacoli avrà anche la sua influenza al modo di vivere lo spettacolo, perché chiaramente qui si tratta non soltanto di un percorso artistico degli artisti e artiste, ma anche proprio di questo che aggiunge la natura. Per noi era molto importante di usare questo spazio così com'è, senza costruire troppo, perché questo fa parte anche della nostra riflessione su come il festival può convivere con una realtà a cui è organizzato. Ha parlato di artisti e di performance, ma performance di che tipo? Quest'anno abbiamo molti artisti che vengono a Sant'Arcangelo per la prima volta, ci sono anche questi che tornano, quest'anno nel cartellone di festival vediamo Michel Moura, l'artista brasiliana con base a Berlino, ci sarà Marvin Tumo, un artista francese con base a Ginevra, che sarà anche per la prima volta al festival. Torna a Sant'Arcangelo Rebecca Chaillon, un'artista francese molto importante per i movimenti antirazzisti, femministi nel teatro francese, che torna quest'anno dopo un grande successo che ha avuto l'anno scorso con lo spettacolo di Whitewashing. Ci saranno anche molti artisti emergenti come Luca Scarvelis, un artista che viene da Vilnius, Giovanni Francesco Giannini, un coreografo italiano, Parini Secondo, sempre praticamente un gruppo artistico di casa, perché Sissi Bassani viene da Savignano. Lisa Werther-Bruten è una coreografa belga che viene per la prima volta in Italia. C'è molta danza, ci sono molti lavori interdisciplinari, c'è anche un po' di teatro, ma noi proviamo sempre di seguire gli artisti e le artiste che sperimentano i linguaggi artistici, che non si ritrovano facilmente nei generi molto ben descritti, e poi chiaramente a noi ci interessa molto anche di presentare i lavori artistici che anche usano performativo come un modo di entrare in un dibattito pubblico. La scelta del Mambo come luogo di presentazione? Eh sì, per noi è stato molto bello di immaginare questa collaborazione, non solo perché abbiamo una grande stima sul lavoro che si sta facendo qui a Mambo per quanto riguarda il programma artistico, ma quest'anno abbiamo anche questa bellissima coincidenza che riguarda una tra le artiste invitate al festival. Quest'anno presentiamo Valentina Medda, una coreografa sarda che al festival presenterà lo spettacolo, il suo lavoro che si chiama The Last Lamentation, in cui fa una riflessione sui riti funebri sardi. È un lavoro che fa parte della collezione di Mambo, per questo abbiamo pensato, se abbiamo questo legame, magari proviamo di raccontare il festival proprio qui. Poi a noi ci piace sempre di aprire nuove collaborazioni, perché crediamo molto che quando ci uniamo, questo che abbiamo da condividere si può sentire un po' più fortemente. Grazie. Grazie mille. Bravo, Paolo, un caro saluto anche a Enrico, risposta esatta, Andrea Roncato. Per quanto riguarda quasi la metà della popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna. E abbiamo concluso la ricca rubrica del venerdì in scena con l'appuntamento 54esima edizione Sant'Arcangelo Festival. Il claim, ho trovato anche questa nuova definizione, il claim, while we are here, mentre siamo qui. Intanto siamo al Breakfast Club, che si congeda con un caloroso abbraccio. Maggio non si è smentito, è già tornato in autunno. Il mio entusiasmo e ottimismo iniziale è già andato, però vi auguro un buonissimo weekend, magari si riprende, domani ha messo bello, ma... Grazie per l'attenzione dal vostro William Piana, un buon ascolto, un buon weekend, alle ore 7 per il Breakfast Club, per i magazine, il Last Minute, l'appuntamento con la prima colazione in diretta. Una buona vigilia di weekend, ciao a tutte, ciao a tutti, dal vostro William Piana, a lunedì, buon weekend, ciao!